2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. Quattro. 2024 di Enrico Pagliarini. Ed ecco a voi la puntata del 14 e 15 settembre 2013. Benvenuti o bentornati a 2024. Io sono Enrico Pagliarini. Sicuramente questa è una settimana con molte notizie. Abbiamo assistito, alcuni di voi avranno assistito probabilmente in diretta streaming su internet alla presentazione delle novità che sono arrivate in casa Apple. La presentazione è già stata a Cupertino e non a San Francisco, come solitamente, come spesso avviene. E poi c'è stata anche una notizia che riguarda soprattutto i mercati finanziari, ma di fatto riguarda anche il mondo della tecnologia, perché Twitter ha annunciato via Twitter, con un tweet di meno di 140 caratteri, di avere inoltrato alla SEC, che è la Consob americana, quindi la autorità che controlla i mercati finanziari, la domanda di quotazione alla borsa di New York. Twitter in 7 anni di vita ha raggiunto 500 milioni di utenti registrati, quindi non siamo al miliardo e oltre di Facebook, ma comunque una cifra sicuramente considerevoli. Siamo a 200 milioni di utenti attivi ogni giorno, viene ora valutato dagli analisti, c'è chi dice 10 miliardi, c'è chi addirittura ha ipotizzato 16 miliardi di dollari, e questo soprattutto sulla base degli ultimi investimenti che sono stati fatti da fondi di investimento nel social network. Sulla quotazione però non si sa molto di più, ad esempio quando andrà in borsa, quanto andrà in borsa, quindi quale percentuale dell'azienda verrà quotata, e quindi le ipotesi di quanti soldi potranno essere raccolti non si possono fare, e questo perché Twitter ha approfittato delle nuove norme varate dall'amministrazione Obama lo scorso anno, il Jobs Act, che riguardano soprattutto le piccole, tra virgolette, perché qui non stiamo parlando di una piccola azienda, comunque aziende che fatturano meno di $1 miliardo. Allora, consentono a queste aziende di mantenere confidenziali, quindi segreti, i documenti fino a 3 settimane prima del lancio del roadshow con gli investitori. E quindi di questa quotazione non si sa molto. Sicuramente è una notizia molto importante per, non solo per i mercati finanziari, ma anche per il mondo della tecnologia. Oggi Twitter fattura circa, almeno le previsioni per la fine dell'anno sono di $582 milioni, fatturato che arriva grazie ai tweet sponsorizzati, quindi la pubblicità che ha trovato questo nuovo canale particolare, perché di fatto non eravamo abituati a questo tipo di pubblicità prima dell'avvento di Twitter. Anche in questo caso la fantasia suggerisce poi derive ed evoluzioni, sviluppi molto interessanti di questo metodo di pubblicità. Ricorderete che la scorsa settimana abbiamo parlato di un signore americano che aveva scelto proprio Twitter, questo metodo, per lamentarsi dei servizi di una compagnia aerea. Quindi non solo pubblicità che le aziende fanno e scrivono su un tweet qualche cosa di un loro prodotto, di un loro servizio, magari rimandando ad un sito internet, ma in questo caso ad esempio un tweet a pagamento nel quale poi uno sceglie il target, l'area geografica di riferimento, eccetera eccetera, è stato utilizzato da questa persona per lamentarsi. E chissà, sarebbe interessante capire qual è stata la mole di retweet che sono stati fatti. Allora, l'annuncio di Twitter è arrivato giovedì sera, nel giorno in cui Facebook ha raggiunto i nuovi massimi storici per il titolo. Dopo quasi un anno e mezzo in borsa, l'azione di Facebook, che era partita da $38, e parliamo del maggio 2012, è scesa poco sotto ai 18 e viaggia invece in questi giorni a 45, attorno ai 45. Quindi alcuni dicono che potrebbe essere un buon momento per lo sbarco sul mercato del secondo social network più famoso al mondo. Nonostante sia ancora tutta da dimostrare la sostenibilità di questi business nel medio e lungo periodo, sicuramente le quotazioni dei social network stanno andando bene, almeno quelle dei più famosi social network quotati alla borsa di New York. Facebook ha quindi guadagnato, come dicevamo, il 17%. LinkedIn, che forse ha un business molto più conosciuto o comunque ha fondamentali molto più solidi, pensate, è cresciuto del 170%. Va detto però che molti esperti concordano nel dire che queste crescite sono giustificate dal fatto che i fatturati di queste aziende crescono molto nei primi anni di vita, perché sono servizi che prima non esistevano, quindi molti si sottoscrivono questi servizi, si abbonano, tra virgolette, insomma diventano utenti di questi social network, e quindi il mercato vergine è facile da conquistare nei primi anni. E poi cominciano i problemi, perché i mercati cominciano a saturarsi anche per aree geografiche, non solo demografiche, e quindi il rischio è che il ritmo di crescita non continui come lo conosciamo oggi, e quindi il tutto rallenti. Stessa cosa che sta succedendo al mercato della telefonia mobile, degli smartphone, non ancora dei tablet. A proposito di tablet, abbiamo una notizia che abbiamo inserito nelle nostre digital news questa settimana, molto interessante. Comunque, a proposito di smartphone, in molti mercati oramai siamo arrivati alla saturazione, e quindi ci si sta rivolgendo a mercati in paesi in via di sviluppo. Questo sta suggerendo alle aziende che producono smartphone di cambiare strategia. È anche il caso di Apple, che questa settimana ha presentato due prodotti: il nuovo iPhone 5S, modello di punta, evoluzione dell'attuale iPhone, un prodotto sicuramente eccezionale, con caratteristiche da top di gamma, e anche il 5C, un modello che viene definito low cost, lo metterei tra molte virgolette, visto che poi non parliamo di un prezzo bassissimo negli Stati Uniti, l'unico paese in cui sono stati comunicati i dati del costo di questo 5C, stiamo parlando di $550 comprato senza abbonamento, $99 con l'abbonamento. Insomma, comunque stiamo parlando di uno smartphone piuttosto costoso, perché di fatto è comunque un ottimo prodotto. Bene, dicevo, le strategie delle aziende che producono smartphone devono cambiare, perché la borsa, soprattutto i mercati, chiedono di mantenere ritmi di crescita di un certo genere, e quindi bisogna inventarsi qualche cosa di diverso. È anche il caso della Apple, e Carolina Milanesi, che è Vice President di Gartner ed è analista esperta del mercato dei terminali mobili, smartphone e tablet, ci ha spiegato come è cambiata la strategia di Apple. Allora, la strategia di base, diciamo che è rimasta la stessa, quello che è cambiato è il modo di esecuzione, nel senso che come strategia Apple continua a guardare i margini prima del market share, però hanno dovuto farlo in un modo diverso, perché il mercato è cambiato, il mercato ha molta più pressione sui margini adesso che l'ha avuta nel passato. Quindi Apple ha dovuto guardare al fatto che prima, un anno fa, avrebbero preso il modello corrente, l'avrebbero abbassato di prezzo e avrebbero fatto uscire il modello nuovo allo stesso prezzo del precedente. Questo con l'iPhone 5 non era possibile. Prendere l'iPhone 5, diminuirlo di $100 e lasciarlo sul mercato avrebbe causato una pressione sui margini incredibile per Apple. Quindi hanno messo in pensione il 5, hanno tirato fuori il 5C e il 5S. Il 5C sul mercato americano $100 in meno su un contratto di 2 anni, e l'hanno fatto tenendo, diciamo, tutto il cuore del 5 com'era, anzi aumentando un attimino la qualità della fotocamera facciale per fare FaceTime, e hanno messo una scocca di plastica, che è questo che gli ha portato, diciamo, il saving più grande sul prodotto. E questo è un aspetto importante e interessante, perché in questo modo, almeno negli obiettivi della Apple, c'è una maggiore possibilità di espandere il business anche in mercati e verso consumatori che non comprano i top di gamma con questo prodotto molto colorato. C'è ad esempio chi ha detto: beh, la stessa Microsoft ha preso in giro la Apple, perché ha detto ci hanno copiato, quindi questo è una conferma che abbiamo fatto bene, visto che la serie Lumia è stata una delle prime ad essere vendute in vari colori. Ci sono naturalmente altri aspetti interessanti. Direi che in generale Apple non ha fatto una presentazione con effetti speciali come stanno facendo ultimamente molte aziende che non sanno più che cosa inventare. Non c'è più vera innovazione in questo settore, l'abbiamo detto più volte. 2024 allora ci si inventano cose che sono fondamentalmente inutili. È stata una presentazione, come dicevo, senza effetti speciali, che è andata anche a fondo su alcune caratteristiche degli smartphone, come ad esempio i 64 bit, cioè l'architettura 64 bit del processore, di cui parleremo tra poco. Vorrei invece portare l'attenzione su quello che Phil Schiller di Apple ha sottolineato in termini di protezione dei tanti dati che abbiamo sullo smartphone. So much of our personal life on these devices, our contacts, our emails, access to our accounts, our photos, and they're with us everywhere we go. So we have to protect them. The most common way, of course, is to set up a passcode. Simple 4-digit passcode or more complex one if you want. Secondo le ricerche di Apple, il 50% delle persone che utilizzano smartphone non mettono il PIN per accedere allo smartphone, perché effettivamente è una scocciatura. Tante volte al giorno uno dovrebbe sbloccare il telefono, e quindi Apple ha pensato ad una tecnologia che si basa sull'impronta digitale e che si chiama Touch ID. Touch ID. Touch ID uses a key you have with you everywhere you go. Your finger. And more specifically, your fingerprint, which is unique to each of us. Phil Schiller ha spiegato che la chiave d'accesso in questo caso è la propria impronta digitale, quindi il proprio dito che tutti i giorni abbiamo con noi. Sicuramente i nostri dati biometrici saranno una delle chiavi del futuro. Anche in questo caso ci possono essere problemi di sicurezza, ma questo è un capitolo che riserviamo ad altre puntate di 2024. Estremamente interessante e molto importante il capitolo dedicato alla sicurezza dei dati biometrici, perché uno potrebbe pensare, beh, il dito ce l'ho sempre dietro e quindi nessuno me lo può prendere. Ci sono sensori che hanno anche il sensore di temperatura, quindi non è che uno può andare col dito che ha staccato da una persona. Diciamo che ci sono tecnologie che permettono anche di riprodurre i dati biometrici, ma in questo caso direi che la tecnologia è piuttosto sicura, poi lo vedremo anche all'opera. Si tratta di una tecnologia, hanno specificato alla Apple, i cui dati biometrici vengono immagazzinati solo all'interno del telefono, quindi non vengono inviati ad alcun server sulla rete internet, con possibilità di essere hackerati, attaccati molto più elevate. Poi c'è chi dice, beh, avete detto 2024, perché lo hanno detto alcuni esperti, l'ha detto Snowden rivelandolo al New York Times, al Spiegel, al Guardian, eccetera, eccetera, che la NSA è in grado di introdursi dentro agli smartphone. Beh, anche questo è vero, ma diciamo che la NSA si introduce all'interno degli smartphone solo quando effettivamente ne vale la pena e la persona che possiede quello smartphone è nel mirino. Quindi direi che di fronte alla NSA ben poco si può fare. Vorrei sentire da Carolina Milanesi, con la quale ci collegheremo di nuovo tra poco, qual è il suo parere di questa tecnologia basata sull'impronta digitale presentata dalla Apple. Ci sentiamo tra un minuto. 2024. Oggi nel nostro programma avremo a disposizione un'ora di trasmissione, dalla prossima settimana torneremo a 1:30. Ci trovate anche sulla piattaforma podcast di Radio 24 oppure sulle piattaforme principali che distribuiscono audio, come ad esempio iTunes oppure TuneIn Radio. Insomma, ci sono tante piattaforme dalle quali potete scaricare il file MP3 della nostra trasmissione, scaricarlo oppure anche ascoltarlo in streaming. Più tardi parleremo della proposta, della serie di proposte, quindi del pacchetto che si occupa di telecomunicazioni della Commissione europea. Ci sono due punti che abbiamo preso di mira e che approfondiremo tra poco. Adesso torniamo a collegarci con la Silicon Valley, dove si trova e dove vive e lavora Carolina Milanesi, Vice President di Gartner, esperta del mercato dei terminali mobili e di tutto l'ecosistema che ci gira attorno. Un mercato molto complesso che si complica sempre di più. Abbiamo parlato di questa tecnologia presentata da Apple questa settimana che si chiama Touch ID, che di fatto sostituisce il PIN. Noi possiamo scegliere se lasciare il telefono privo di blocchi e quindi riaccenderlo, riabilitarlo quando magari lo prendiamo dalla scrivania dopo che l'abbiamo lasciato magari un'ora senza toccarlo, possiamo scegliere di lasciarlo libero oppure di mettere un PIN. In questo modo una persona che volesse andare sulla nostra scrivania non potrebbe accedere, oppure il ladro che ci ruba il telefono dovrebbe conoscere il PIN. Apple ci dice che il 50% delle persone, io pensavo anche di più, non mettono il PIN perché è una scocciatura. Io in effetti devo ammetterlo, una cosa che non si deve fare, nel mio telefono principale non ho messo alcun PIN. Su altri terminali sì, come ad esempio il tablet, ma su quello no. Cosa che non deve essere fatta, ma l'abbiamo detto più volte, la sicurezza deve sconfiggere anche la pigrizia. E in questo caso io non fino adesso, fino ad oggi, magari domani cambio idea, cambio strategia. Phil Schiller dice: il 50% dei nostri clienti, abbiamo visto, non mette il PIN. Allora abbiamo introdotto questo utilizzo molto sofisticato dell'impronta digitale. In questo modo il telefono si blocca ogni volta che noi lo abbandoniamo per qualche minuto fermo sulla scrivania, e quando lo riprendiamo, o in tasca, e quando lo riprendiamo mettiamo il dito e lui si sblocca. Naturalmente lo fa solo con il dito che lui riconosce essere quello del proprietario, quindi il ladro non riesce a far nulla. Vorrei un parere da Carolina Milanesi: è una tecnologia interessante a vostro parere o è un effetto speciale più che altro? No, ci sembra una soluzione buona intanto che è fatta bene, nel senso che sembra che Apple abbia messo molto lavoro nel fare una soluzione che funziona bene e è molto esatta. Io quando ho provato ho dovuto toccare il home button dell'iPhone diverse volte in maniera che prendesse un poco alla volta tutte le linee del mio indice. Questo è importantissimo perché ci sono sul mercato già specialmente PC e telefoni VoIP per l'ufficio che hanno questa abilità, no? Di usare il tuo dito per aprire e sbloccare il telefono. Però non funzionano sempre, e quindi l'utente che si deve trovare con un oggetto come il telefono mobile che è usato molto durante una giornata, ci sono degli studi che dicono che lo tocchiamo almeno 50 volte in un giorno, diventa veramente irritante se quando tu cerchi di sbloccarlo non funziona. Quindi deve essere fatto molto bene. Per quanto riguarda il discorso del gimmick, se funziona, se dà effettivamente valore, certamente è una chiave in più, se vuoi, nel chiudere la porta della sicurezza del telefono, che visto quello che ci facciamo al giorno d'oggi non è sicuramente una cosa negativa. Quello che viene è anche fatto in maniera interessante, che fa vedere quanto Apple sia non soltanto legata alla parte di hardware ma che guarda tutto l'ecosistema, è il fatto che per esempio questo dito, no, questa impronta ti apre anche iTunes, non solo il telefono, quindi il modo per verificare te come utente per il telefono ma anche per il tuo account, che quindi aggiunge un layer di sicurezza anche per la parte di iTunes. Per gli amanti della storia, diciamo che la prima azienda che aveva inserito un sensore per l'impronta digitale su uno smartphone è stata Motorola un paio di anni fa. Quindi anche in questo caso l'Apple non è stata la prima, ma in molti casi Apple non è la prima che introduce tecnologie. Spesso ha introdotto tecnologie migliorandole e rendendole effettivamente utilizzabili in modo molto facile. Vedremo quando potremo provare. Beh, Carolina Milanese è stata fortunata, ha già provato questi terminali, ma diciamo che con l'esperienza di qualche giorno, qualche settimana, si capirà se questo Touch ID è effettivamente utile, lo si può usare con tranquillità o invece siamo ancora con una tecnologia non matura. Vedremo. Altra cosa molto interessante riguarda il nuovo processore A7 che si basa su un'architettura a 64 bit. Una evoluzione alla quale si unirà presto anche Samsung, perché ha annunciato Samsung che i prossimi smartphone, quindi probabilmente nel 2014 vedremo smartphone a 64 bit con processore a 64 bit anche dal produttore coreano. Comunque in questo caso la tendenza è molto lampante, potenza dei processori che cresce moltissimo. Molti esperti mi dicono che probabilmente, quasi sicuramente, il 2014 sarà l'anno in cui vedremo l'esplosione di alcune tecnologie proprio grazie alla estrema potenza, alla crescita incredibile della potenza dei processori e dei chip sopra. E quindi non solo processore, la CPU, ma anche la GPU, quindi il processore grafico all'interno degli smartphone, che già sono cresciuti tantissimo ma che cresceranno molto nei prossimi anni. Secondo Apple le performance della CPU in questo caso crescono di 40 volte, quindi è una cosa veramente incredibile. Ma oltre al processore c'è un altro piccolo processore molto interessante sul quale si è soffermata l'attenzione di pochi, tra cui Carolina Milanesi. Di che cosa stiamo parlando? Per me questa è stata una delle cose più interessanti dell'evento, perché la gente non ne ha parlato molto, ma in realtà questo è Apple che ti dà un wearable che effettivamente non lo indossi ma lo tieni in tasca. Cioè hanno preso le funzioni sensori che prima erano nel telefono, erano parte del processore principale del telefono, li hanno scorporati e hanno fatto un motion processor separato, quindi è un processore che si focalizza soltanto sui sensori e che ti dà le stesse cose che come sensore ti può dare un wearable come uno smartwatch. È un modo per Apple di mettere questo sul mercato, di vedere che cosa noi come utenti facciamo, di vedere anche gli sviluppatori che cosa possono fare. Infatti quando l'hanno annunciato hanno parlato di una applicazione che uscirà sul mercato quando escono i telefoni nuovi, esce il telefono, il 5S di Nike, che avrà la possibilità di vedere quanti passi fai, quante calorie bruci e via dicendo, di lavorare in combinazione con il Nike Fuel, quindi ti dà anche punti se hai Nike Fuel e ti tieni in forma con questa Fuel Band. La cosa secondo me interessante è che è un passo sicuramente chiaro che Apple ha intenzione di fare qualcosa. Non sappiamo se sarà uno smartwatch, quindi un iWatch, piuttosto che una band, piuttosto che qualcos'altro, ma sicuramente vedremo wearable devices che vengano da Apple. Le cose che puoi fare adesso con il 5S, con questo processore, sono cose del tipo che se stai guidando e hai le mappe attive, con l'accelerometro il telefono è capace di vedere quando tu hai parcheggiato, non sei ancora arrivato alla tua destinazione, quindi cambia da macchina a mappa pedonale per portarti alla tua destinazione finale. Un'altra cosa che succede molto spesso adesso è che quando guidi ti vengono i prompt per Wi-Fi. Se tu sei in una città e stai guidando, con tutti i Wi-Fi che adesso abbiamo a casa, continui ad avere il prompt di dire: ah, ti vuoi collegare alla rete Wi-Fi. Ovviamente se stai facendo 40 km all'ora perché stai guidando non ti vuoi collegare alla rete Wi-Fi, quindi questa è un'altra cosa che il telefono sarà capace di capire. L'ultima cosa, per esempio, come esempio, no, per capire che cosa possiamo fare, se il telefono non viene mosso per un certo numero di ore, per esempio quando dormiamo, che magari è sul comodino però non ci facciamo nulla, cambia i tempi di connessione alla rete in maniera che la tua batteria viene salvaguardata e quindi hai una viabilità di batteria molto più lunga. Bene, io ringrazio Carolina Milanesi, riparleremo perché abbiamo ancora altre due o tre cose da aggiungere su iPhone 5C e 5S tra poco, dopo le notizie di GR24. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, ci trovate anche sul nostro sito internet www.radio24.it. Vi consiglio come sempre di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. In questo modo potete scaricare anche in maniera automatica, settimana dopo settimana, il file MP3 della nostra trasmissione. Io sono Enrico Pagliarini, ci trovate anche su Twitter sia con il mio account, ovvero @Pagliarini, oppure l'account di 2024 e anche nella pagina di 2024 su Facebook, dove potete lasciare le vostre impressioni, le vostre considerazioni, critiche, suggerimenti, eccetera, eccetera. C'è anche un'email, 2024, scritto in cifra, 2024@radio24.it. Abbiamo parlato poco fa dei nuovi iPhone che sono stati presentati dalla Apple. Avremo sicuramente modo per riparlarne, perché per quanto riguarda il nostro paese non è ancora stata comunicata una data ufficiale di uscita sul mercato. Ci sono paesi molto vicini a noi, uno confina anche con noi, che invece sono stati inseriti nel primo gruppo di paesi dove i due nuovi iPhone arriveranno il 20 settembre, quindi molto a breve, e sono la Francia e la Germania. Poi ci sono altri paesi in questo gruppo, tra cui la Gran Bretagna, altri paesi in questa dozzina che sono stati scelti come primi per lo sbarco sul mercato. Una notizia invece che interessa e riguarda tutti coloro che hanno un sistema iOS, almeno quelli più recenti, che potranno essere aggiornati al nuovo sistema operativo iOS 7. Per tutti la data è il 18 settembre, quindi sarà possibile fare l'aggiornamento. In generale consigliamo, per tutti coloro che hanno computer, smartphone e tablet, laddove è possibile fate gli aggiornamenti ai vostri software, anche per motivi di sicurezza, non solo per godere delle nuove performance, delle nuove caratteristiche dei vari sistemi operativi o dei vari software, ma anche per motivi di sicurezza. Fate gli aggiornamenti. Tra poco parleremo del pacchetto telecomunicazioni presentato dalla Commissione europea. Anche in questo caso si tratta di una proposta, di una bozza, dovrà essere discussa dal Parlamento europeo, ma ci sono molte cose interessanti. Adesso le nostre Digital News. Digital News. Secondo le ultime proiezioni di IDC, nell'ultimo trimestre di quest'anno verranno consegnati più tablet che PC, quindi compresi i notebook, computer portatili e i computer desktop. Se si considera l'intero anno, il numero di computer venduti è ancora superiore ai tablet, e la stessa cosa dovrebbe accadere anche nel 2014. Il sorpasso definitivo su base annua dei tablet sui PC dovrebbe arrivare nel 2015. Intel torna all'attacco del segmento smartphone e tablet e ha presentato alla stampa specializzata i nuovi processori Atom Bay Trail. Sono processori compatibili con i terminali Windows Phone e Android, in concorrenza con tutte le attuali soluzioni basate su architettura ARM, come ad esempio il Tegra 4 di Nvidia e lo Snapdragon di Qualcomm. Intel è ancora oggi una potenza nel mondo dei PC, ma è pressoché assente nel mondo degli smartphone e dei tablet, dove vincono invece le soluzioni ARM. ARM, lo ricordiamo, è una società britannica che cede in licenza la propria architettura per i processori. All'IFA di Berlino, la Sky britannica aveva mostrato una serie di test sulle trasmissioni 4K, ribadendo che i primi canali commerciali saranno disponibili nel 2016. Anche Sky Italia inizierà dei test sul 4K assieme a Thomson Video Networks, utilizzando il codec HEVC, che è quello che tutti dicono sarà il codec utilizzato per il 4K. Durante i mondiali di calcio del prossimo anno verranno fatte alcune riprese in 4K, ci saranno trasmissioni sperimentali però non accessibili al pubblico, quindi solo per gli addetti ai lavori, solo le TV faranno questi test. Per arrivare ad una diffusione di questa tecnologia si dovranno attendere ancora molti mesi, appunto parlavamo del 2016, perché bisogna trasformare tutta la catena video, cioè la ripresa, quindi le videocamere, la trasmissione via satellite, via terrestre, eccetera, eccetera, la ricezione, quindi ci vogliono decoder o riproduttori per riprodurre in 4K, e poi anche i TV, bisogna che si diffondano i TV 4K. Digital News. È morto questa settimana a 80 anni Ray Dolby, famoso per due tecnologie che hanno rivoluzionato il suono: la riduzione del rumore di fondo, alcuni di voi ricorderanno il Dolby B, e poi tutte le tecnologie multicanale e di compressione del suono, come il Dolby Stereo, il Dolby Surround, fino al Dolby Digital. Ray Dolby ha fondato i Dolby Laboratories nel 1965 in Inghilterra, per poi trasferirsi in California 10 anni dopo, in California, perché lì c'è e c'era soprattutto l'industria del cinema. Per favorire la digitalizzazione e l'ammodernamento tecnologico, le PMI italiane potranno accedere a finanziamenti a fondo perduto tramite voucher di 10.000 euro per l'acquisto di software, hardware o per la connessione a banda larga. Il tutto è previsto nella bozza, quindi siamo ancora a livello di bozza, del decreto Fare 2, in cui si precisa che le risorse saranno stanziate nell'ambito dei fondi strutturali europei. Samsung non è accusata di copiare solo smartphone e tablet, ma ora anche aspirapolveri. Allora, l'ultimo episodio riguarda una tecnologia utilizzata dall'azienda coreana in un aspirapolvere appena presentato all'IFA di Berlino. Secondo la Dyson, quella tecnologia è copiata e infrange un brevetto registrato nel 2009 dalla Dyson. Per questo la società britannica si è rivolta all'alta corte di giustizia inglese. La storia dell'azienda britannica fondata da James Dyson è piena di innovazione, come ad esempio l'aspirapolvere senza sacchetto di raccolta. Quella che sentite è la voce di Neelie Kroes. La signora Kroes è la commissaria europea all'agenda digitale. Questa settimana la Commissione europea ha presentato una bozza per riformare il settore delle telecomunicazioni in Europa. È un pacchetto di misure molto atteso, molto importante, e che sicuramente solleverà molte discussioni. Noi abbiamo scelto due argomenti, perché ce ne sarebbero tantissimi, ma due che forse sono tra i più importanti e anche tra i più popolari, ovvero il roaming e la neutralità della rete. Saluto Innocenzo Genna, che è esperto di materie regolamentari, da molti anni lavora a Bruxelles e si occupa proprio di questi temi in relazione al mercato delle telecomunicazioni. Bentornato a 2024. Grazie, buongiorno. Che cosa punta a riformare questo pacchetto, questa proposta della Commissione europea? La Commissione europea vuole rimuovere quegli ostacoli che attualmente impediscono la fruizione da parte dei consumatori di un vero mercato unico delle telecomunicazioni. Noi sappiamo che l'Europa è divisa in 28 paesi, determinate attività avvengono come se fossimo in un unico mercato, altre sono invece estremamente spezzettate. Nella telefonia questo è molto evidente, conosciamo i problemi del roaming, del fatto che andando all'estero si pagano delle tariffe addizionali rispetto a quelle domestiche. Sappiamo anche che se andiamo all'estero e volessimo usare internet dobbiamo fare un nuovo abbonamento all'estero, e questo è un problema non solo per i consumatori ma anche per gli operatori che vorrebbero offrire un servizio. E la Commissione cerca di superare questi problemi al fine di creare un mercato unico. Questo sicuramente è il tema più popolare tra quelli che sono stati affrontati in questo complesso, lungo, molto importante pacchetto di proposte della Commissione europea. Noi riprenderemo proprio da qui, dicevo, è sicuramente quello più popolare, quello di cui si è parlato molto, ma ci sono tantissime altre cose che sono comprese all'interno di questo provvedimento. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, ci risentiamo tra un minuto. 2024. In mancanza di fibra ottica che arriva sull'isola del Giglio, è stato necessario installare un ponte radio per fornire connettività di internet alla stampa e a tutte le persone che lunedì arriveranno sull'isola in occasione della rotazione della Costa Concordia e avranno bisogno di internet. Rete Ivo, che è un provider toscano specializzato in connettività wireless, ha installato due ponti radio in alta frequenza, parliamo di 13 e 17 GHz, che forniscono una capacità di 500 megabits al secondo e dovrebbero supportare circa 700 connessioni contemporanee. In mancanza di fibra valgono le onde radio, ma sarebbe più bella la fibra ottica. Lo diciamo spesso a 2024, adesso stiamo parlando del pacchetto di proposte della Commissione europea che punta a cambiare, a rivoluzionare, a modificare il mercato delle telecomunicazioni in Europa. Dicevamo che la Commissione vorrebbe azzerare il roaming a partire dal 2014, vorrebbe, usiamo il condizionale perché non è ancora detto. Siamo collegati con Bruxelles, con Innocenzo Genna. Innocenzo, vale questa proposta anche per il roaming dati, non solo quello per la voce? Sì, vale sia, diciamo, questa riforma riguarderà sia voce che dati. Va detto che la riforma è complessa e diciamo non sarà così immediata, mentre invece la comunicazione e il modo con cui è stata spiegata al giornale forse è stato un po' troppo semplice. Qualcuno avrà anche capito che il roaming finirà nel 2014 o entro il 2016. La realtà è più complessa, vi spiego meglio. Per primo motivo, questa è una proposta, deve passare per il Parlamento, è molto complessa, non vi è solo il roaming, vi sono molte altre misure che possono creare conflitti tra coloro che la voteranno, per cui non sappiamo se e quando sarà approvata. Secondo, anche quando verrà approvata, per quanto riguarda il roaming, gli operatori non saranno obbligati a eliminare i costi di roaming, sarà una facoltà. Perché lo faranno eventualmente? Perché in questa proposta vengono previsti una serie di incentivi affinché commercializzino delle tariffe a zero roaming. Ma non sappiamo se, ad ogni modo, questi incentivi saranno sufficienti a far cambiare le politiche tariffarie degli operatori. Parliamo di incentivi di che tipo? Sono incentivi perché nell'attuale regolamento gli operatori dovrebbero essere obbligati dal 2014 a permettere ai propri clienti di distaccarsi quando vanno all'estero e scegliere un operatore di roaming differente da quello domestico. Quindi se io sono con TIM, andando in Francia, potrei chiedere alla TIM di interrompere il rapporto, io potrei chiedere di andare in roaming con un operatore francese. Gli operatori non sono chiaramente molto contenti di questo meccanismo, sia perché perdono il cliente, sia perché devono fare una serie di investimenti per permettere che ciò avvenga. E allora l'incentivo della Commissione è quello di dire: se voi fate una tariffa zero roaming, vi sottraete a questo obbligo. Sì, quindi nell'esperienza, possiamo dire che nell'esperienza comune, in effetti, quando uno va all'estero si possono scegliere le reti disponibili di tutti gli operatori che ci sono nel paese straniero dove noi andiamo. Quindi in futuro, se gli operatori garantiranno ai consumatori la possibilità, andando all'estero, di avere un roaming azzerato e quindi di telefonare alle stesse tariffe, questo obbligo di potersi agganciare a tutte le reti verrebbe meno e con complicazioni minori per gli operatori di fatto. Certamente, i quali appunto non perderebbero il cliente e non dovrebbero fare questi investimenti particolari per permettergli di andare via. Però è chiaro che questa scelta degli operatori non è automatica, perché comunque un operatore farà il suo ragionamento tra quali sono questi costi di investimento e il rischio di perdere il cliente da un lato, e dall'altro conterà quant'è il fatturato che gli viene dal roaming, e quindi a seconda di quale dei due fattori prevarrà deciderà o meno di scegliere l'opzione che viene offerta dalla CROES. Quindi non sappiamo quale sarà la scelta degli operatori al momento. Comunque, Innocenzo, tu ci confermi che questa norma riguarda sia la voce che i dati, quindi per chi naviga su internet, se le cose andranno, diciamo, nel verso giusto, diciamo così, è possibile e probabile che nei prossimi anni, quando questa norma verrà approvata, si possa anche navigare su internet senza pagare extra costi quando si va all'estero. Certamente, sì. Senti, quindi a questo punto vedremo poi che tipo di discussione ci sarà all'interno del Parlamento. Oltre al Parlamento dovranno intervenire anche i governi nazionali, o una volta adottato questo provvedimento dal Parlamento europeo sarà legge per tutta Europa? No, devono intervenire i governi attraverso il Consiglio europeo. Per questo la procedura di approvazione è abbastanza complessa, perché nel momento in cui, qualora il Parlamento modifichi la proposta della Commissione, il che è probabile che avvenga, ritornerà, diciamo, in corsa anche la Commissione. Poi questa proposta modificata dovrà essere anche approvata dal Consiglio, ci sarà un sistema di navette simile a quello che accade nel Parlamento italiano tra la Camera e il Senato, per cui è impossibile prevedere quando questo processo verrà completato. Un altro capitolo di questo provvedimento riguarda la neutralità della rete. Sapete che il concetto di neutralità della rete internet è uno dei pilastri su cui si fonda il web, internet in generale. Oggi di fatto potremmo dire che la rete internet non discrimina i bit, i pacchetti di dati, quindi qualsiasi cosa transita liberamente sulla rete internet. Anche un piccolo consumatore, anche una piccola azienda può creare un proprio servizio e trovare spazio sulla rete internet senza che appunto gli operatori discriminino il traffico. Da questo punto di vista, se le cose cambiassero, ci potrebbero essere dei problemi oltre che di libera concorrenza, anche di democrazia. Che cosa prevede, se prevede qualche cosa, questo pacchetto di proposte della Commissione europea? La Commissione pubblicamente sostiene che questa riforma proteggerà la neutralità della rete a tutto vantaggio dei cittadini. Pur non volendo discutere le buone intenzioni del commissario Kroes, purtroppo però queste intenzioni non si riflettono nella proposta vera e propria, perché la neutralità della rete viene rispettata fino a un certo punto, cioè effettivamente si vieta agli operatori di bloccare o disturbare i servizi degli utenti che vogliono utilizzare determinate applicazioni che magari agli operatori non piacciono per qualche motivo, non convengono. E questo è buono, e questo è fatto è in favore della neutralità della rete, però manca un pezzo di questo meccanismo, cioè non si impedisce agli operatori di tariffare determinati servizi non graditi a prezzi maggiori di quelli graditi. Quindi cosa succederebbe se un operatore non vuole che il suo utente non utilizzi un certo tipo di servizio perché magari è in concorrenza col suo, perché di un operatore insomma non gradito? A quel punto basterà per l'operatore imporre una sorta di tassa addizionale sull'accesso a questo servizio, e come a volte è capitato a coloro che volevano utilizzare Skype, un certo operatore gli hanno detto: se vuoi utilizzarlo devi pagare 10 euro in più, perché così l'operatore difendeva il proprio servizio voce. Allora, è evidente che se io vieto il blocco di accesso ai servizi, ma permetto comunque che questi servizi possano essere tariffati in maniera onerosa, non sto raggiungendo l'obiettivo che mi ero prefissato, perché a questo punto basterà per un operatore di rete imporre queste tasse addizionali per mettere fuori gioco alcuni servizi. C'è anche il rischio che l'atteggiamento, sulla base di queste nuove norme, l'atteggiamento degli operatori possa essere quello di filtrare, rallentare o addirittura bloccare alcuni servizi, o questo è palesemente vietato? No, questo è palesemente vietato, e quindi bisogna dare atto a che la riforma, da questo punto di vista è corretta. Benché vi sono alcuni aspetti da chiarire, perché vengono considerate queste attività lecite per quanto riguarda invece la prevenzione dei crimini. Ora, lì bisognerà capire se gli operatori si dovranno mettere a fare i poliziotti per conto della polizia, quindi questo è un aspetto da chiarire. Però ammettiamo che insomma, i blocchi e il disturbo della rete sono proibiti in maniera esplicita. Però resta questo problema della tariffazione differenziata dei servizi, che può alla fine vanificare le migliori intenzioni della Commissione. Sì, c'è chi dice che una norma di questo genere sia fatta ad esempio pensando ai servizi televisivi. Io sono un operatore e ti dico: se tu ti abboni con me, ti garantisco una buona qualità di questo canale televisivo perché fa parte del mio pacchetto, e magari gli altri non ti arrivano così fluidi, anche in mancanza di un costo addizionale. Cioè, questo potrebbe essere uno scenario? Sì, purtroppo sì, ma cerchiamo di capire. La neutralità della rete non vuol dire che, come qualcuno pensa, i bit devono essere tutti uguali come nel Soviet supremo. In verità la connettività differenziata è possibile, tipo per un servizio come la televisione. Però se un operatore offre una connettività differenziata per i servizi televisivi, ma qualsiasi servizio televisivo, a quel punto l'utente sceglierà se comprare questo servizio di connettività particolare e poi sceglierà anche il servizio televisivo che preferisce. E questo va bene. Il problema è quando l'operatore di rete dice: io ti do un servizio di connettività differenziata, ma solo per il mio servizio, per la mia televisione. Tutte le altre avranno un servizio che funzionerà male. A quel punto è chiaro che questo meccanismo farà sì che il fornitore dei contenuti che prevarrà sarà solo quello che ha un accordo particolare con l'operatore di rete, mentre gli altri probabilmente usciranno dal mercato e quindi ci sarà meno scelta, meno innovazione, meno benefici per i consumatori. Sì. La concorrenza però non è sufficiente per evitare che accada tutto ciò, perché effettivamente se noi guardiamo al mercato delle telecomunicazioni ci sono molti operatori e i consumatori possono scegliere da un operatore all'altro. Poi effettivamente le offerte non sono così diverse, non sono diversissime, però la concorrenza non è sufficiente a far sì che si eviti questo scenario? Allora, per la commissione sì, secondo la commissione c'è concorrenza nel mercato e quindi nel momento in cui l'utente è insoddisfatto per le offerte che vengono fatte dal proprio operatore di accesso internet vorrebbe scegliere un altro. La verità però è più complessa di questo scenario, perché nel mercato telecom si va verso un consolidamento. Se pensiamo ad esempio ai servizi mobili, ci sono solo 4 operatori di rete e la tendenza in Europa è di ridursi da 4 fino a 3. Consideriamo i mercati nazionali, perché è vero che ci sono tanti operatori mobili, ma ogni utente utilizza l'operatore del proprio paese. Nel mercato fisso è lo stesso, gli operatori sul mercato sono, diciamo, quelli residenziali sono 5 o 6 e c'è la tendenza anche lì a consolidarsi. Quindi quello che accadrà è che l'utente avrà sempre meno possibilità di scelta, sempre meno alternative e il rischio di collusione tra gli operatori sarà elevato, per cui il rischio finale è che se un operatore è insoddisfatto di una certa offerta perché appunto è restrittiva di questa libertà di scelta, potrà cambiare e finirà su un altro operatore che offre le stesse restrizioni. Poi magari ce ne sarà un terzo, ma poi finisce lì, e allora questa non è libertà di scelta. Ti faccio un'ultima domanda. Esistono dei paesi europei che sono in posizione più critica rispetto a queste norme stabilite dalla Commissione europea? Sì, l'Olanda e la Slovenia sono intervenute appunto con delle legislazioni che impediscono agli operatori di violare la net neutrality e lo hanno fatto, diciamo, seguendo le ire dei consumatori, delle associazioni anche dei diritti civili che avevano appunto contestato queste attività discriminatorie degli operatori di rete. Va detto che infatti non esiste a livello europeo in questo momento una norma che impedisca agli operatori di rete appunto di comportarsi così. Ma questo è il motivo per cui gli operatori sono abbastanza cauti, perché sanno che se fanno in maniera troppo evidente delle attività di violazione della neutralità della rete, il Parlamento nazionale potrebbe intervenire e bloccarli, come accaduto in Olanda e Slovenia. Ma qualora la riforma Kroes diventasse legge, a quel punto prevarrebbe sulle normative nazionali, comprese quella olandese e slovena, e a quel punto gli operatori di rete avrebbero, come dire, la strada aperta, sarebbe come aprire la grata delle fiere. E questo è il motivo per cui la riforma della Kroes potrebbe avere nel lungo periodo degli effetti deleteri, anche se, riconosco, non è questa l'intenzione del commissario. Bene, io ringrazio Innocenzo Genna per essere stato con noi. A presto e buon lavoro. Arrivederci. E così concludiamo questa versione podcast di 2024. Come sempre, grazie per averci ascoltato, per la vostra attenzione, anche a tutti coloro che ci hanno scritto in queste ultime settimane. Persone che ci ascoltano in podcast, adesso cercherò di fare una sintesi delle email che ci avete spedito. Continuate a scriverci dicendoci dove e come ci ascoltate. Molti ci ascoltano mentre corrono, mentre fanno sport. quindi questa è una buona cosa. Fate sport e ascoltate 2024, direi che meglio di così non si può. E poi, scherziamo naturalmente, e poi molti ascoltatori ci ascoltano in automobile e quindi molti naturalmente utilizzano una chiavetta USB, la inseriscono nel sistema dell'automobile e ci ascoltano mentre vanno a lavorare. Faremo anche una breve raccolta delle persone che ci ascoltano dall'estero, questo ci fa molto piacere perché visto che internet è l'unico modo per farci ascoltare all'estero, beh, persone che ci ascoltano da tutte le parti del mondo e non solo negli Stati Uniti e in Europa, ma anche in Asia, un paio di persone ci hanno scritto, quindi raccoglieremo le email e magari insomma li saluterò nella versione podcast. Mi piace anche questo modo interattivo per dialogare a distanza con gli ascoltatori. Quindi, oltre ai ringraziamenti, vi do appuntamento alla prossima settimana. Torneremo alla nostra versione di 1:30, quindi dalle 15:30 alle 17 del sabato e naturalmente anche in podcast. Un'ultima cosa vorrei dirla relativamente a quello che poco fa diceva Innocenzo Genna a proposito della neutralità della rete. Questo è un tema estremamente complesso, variegato, dove naturalmente ci sono tanti pareri diversi, però un punto è importante sottolinearlo. Ci sono molti esperti, e io condivido questa posizione, che dicono beh, ci vorrebbe una società della rete che costruisca una nuova rete in fibra ottica per tutta la nazione, e questa società dovrebbe essere una società pubblica, non partecipata dai 3 o 4 operatori principali che poi si mettono d'accordo e fanno quello che vogliono. Società pubblica che garantirebbe anche la neutralità della rete, oltre che una certa sicurezza dell'infrastruttura. Anche perché, l'abbiamo detto più volte, questo è un investimento che ha dei ritorni nel medio e lungo periodo, ma non è un investimento a fondo perduto. Torneremo a parlare anche perché è importante raccontare le piccole esperienze che ci sono in giro per l'Italia di fibra ottica che è stata posata e viene utilizzata. 2024 vi aspetta in podcast la prossima settimana. Grazie a tutti e a presto. 2024.